ti alza le zampe e ti stritola, però tentare qualsiasi cosa. No, a quanto pare è stato proprio assalito dall'orso, capito, mentre faceva trick. Pensano che sia un orso, perché già era successo in quella zona, c'erano stati degli orsi che avevano attaccato le persone, e sono liberi, capito, sono liberi dal bosco. Sì, così in Alta Italia minimo. E mi pare di aver letto che il sindaco ha ordinato l'abbattimento dell'orso, credo proprio di quello, poi non so se lo riconosceranno da sangue sul pelo, no? Tra gli artigli, di abbatterlo ha ordinato. Beh, questa massa di una bambina qui. Quindi in quel caso lì uno se ha una pistola che lo spara, non gli direi niente perché l'ha fatto per difendersi, però. Truppi, Marco, io portavo il bestiame vivo, poi lo portavo morto e vedevo come lo macellavano, capito? E a me questa cosa mi è rimasta impressa. Ma l'hai visto dal vivo? Sì, sì. Ah, io andavo a prendere il bestiame, c'avevamo il camion per prendere il bestiame dove lavoravo, andavo a prendere il bestiame nelle varie campagne, nei paesi e cosa, lo portavo al mattatoio c'era l'altro camion della carne macellata, mollavo quello di camion, ammazzavano gli animali davanti a me, poi me li caricavo e me li portavo giù per la vendita, no? Lo mettevo nel camion frigo. È brutto vederlo dal vivo, c'è una cosa che lo guardi sullo smartphone così, però dal vivo no, non mi gusta. E questa cosa vuoi? E chi? Non sento nulla, ce l'ho squalcalzato. Prova a alzarlo, che già lo senti, ghirighirighi, è propagazione. Allora, sento una ragazza che modula in FM togliendo lo squelce. No, io lo sento qua. Attenzione al canale 10, canale 10. Chi ha l'ascolto cambio, Italia chiama. Oh, ecco, quando mai mi sentiranno. Sembravano cinesi, o giapponesi, non lo so. Parlavano una lingua strana, mai sentito. Adesso ci si mette anche la Cina di mezzo, mamma mia. Comunque se i cinesi entrano in guerra contro la NATO, la prima cosa bisogna andare nei negozi dei cinesi e scannare i cinesi. E già restavo per picchiare uno di cinese, ma te l'ho raccontato? Credo di no. Stato a prendere un paio di cuffie per cantare. E ce ne aveva alcune normali, alcune più performanti, belle, e ho preso le migliori che c'erano. Sono andato a casa e ho aperto il pacco, Marco, e c'era il microfono di quelli regolabili staccato. Ho pensato che fosse solo staccato, invece l'ha rotto. Cosa ho fatto? Appena aperto, l'ho richiuso, sono ritornato indietro e gliel'ho detto. E mi ha detto che l'avevo rotto io. Tu rotto, tu messo così, fatto cos'ha? Isso, l'ho preso a voce, sono stati tutti zitti nel negozio. L'ho preso a voce, l'ho attaccato alla Lumuru. Ho detto, non saranno le 16 euro che ho pagato, però tu ti stai comportando male, perché io ti ho dato i soldi buoni e tu mi devi dare la roba buona. Tu lotto. No, quello dà fastidio, cioè un normale venditore direbbe, vabbè, è rotto, tanto con tutte le tonnellate di robaccia che gli arrivano, di roba, poteva cambiartelo per dire. E invece ha voluto fare, no, tu culo lotto. Marco, ho voluto evitare perché erano 16 euro, non ne valeva la pena, guarda, mi sta avendo una gara di pulire le mani in alto. E c'era altra gente e gli ha detto guarda lotto lui, vero? E quello gli ha detto, io sono venuto qua per comprare, non per fare testimone o dare giudizi, ci ha detto questo signore. Mi avrebbe detto, con queste situazioni, con questa tensione internazionale, non avrei fatto tanto lo scemo, gli ho detto il cinese, se no non torni a casa. E la moglie, sì, tu lotto, mio marito ha fatto vedere prima, sì, mi ha fatto vedere che era col microfono, quello sì, però quando io sono tornato a casa ed era in scatola di cartone, non è possibile, l'ho messo sul sedile della macchina, Marco, non è possibile che si sia rotto magari sbattendo, lo facendo. l'ho messo sul sedile, l'ho appoggiato e poi sono arrivato a casa, come l'ho aperto l'ho visto rotto e subito l'ho richiuso e sono ritornato indietro, 5 minuti, dopo 5 minuti l'ho riportato. Non avevo nemmeno slegato il filo che era tutto quanto confezionato, vabbè, l'ho aggiustato lo stesso perché l'ho aggiustato, ne ho messo silicone nero, manco si vede, però intanto è proprio il metodo che hanno di lavorare, capito? Mi sembra di sentire un break, però è bassissimo. Prova a mamma dallo avanti, oppure provo io. Avanti il break. A vero. È vero. Ciao Giovanni, buona Pasqua a te, dai. Ciao Natalino, ciao Giovanni. Giovanni da dov'è? Perché mi arriva a filo di QRM. A Prattamona. Ah, Giovanni, mi sei arrivato molto meglio, anche 9 arrivavi, oggi sei tipo Santiago 5.5-6, ora se puoi ritoccare e migliorare la situazione. Natalino, e allora, com'è andata la Gozzoviglia ieri? Natali. E beh, ieri ti sei soddisfatto a livello di culinaria? Sì, soddisfatto. Allora, grazie di te. Avevo di quelle tagliatelle, ho fatto al ragù e poi un po' di gamberoni, c'avevo. Pure noi, tagliatelle al ragù e poi carni varie alla griglia, K. Vai Gianni per Natalino. Ehi, ciao Natali, tanti auguri. Vabbè. No, io ieri ho fatto ravioli invece che tagliatelle, però erano buoni, dai. Ho fatto un buon sugo e erano veramente buoni i ravioli. E noi non abbiamo preso più ravioli perché abbiamo provati l'ostin l'ultima volta e non ne abbiamo più preso, abbiamo avuto paura a prenderli. Come l'oschi, Natali? Siamo fitti. Oh, tutti i settimane, Ina. Un disco per... Tu lo sai quale devi prendere i ravioli? Quelli sfogliadoro sono dei migliori, dai. Quelli sfogliadoro sono, non sbagli. Ravioli sfogliadoro. Cosa? Li hai presi? Li trovi da tutte le parti, li trovi. Guarda, se poi li vuoi comprare direttamente dove li fabbricano, via Guido Sieni, vai, e c'è proprio dove li fabbricano e te li danno. Se tu li chiedi due pacchi, te danno due pacchi, li chiedi tre, te danno tre. E io li prendo sempre da nonna Isa oppure da Mura. Signori, di Biglio li voglio vedere freschi, fatti da lì. Se ne vuoi vedere freschi vai dove li fanno, te l'ho detto, via Guido Sieni, se sei dove via Guido Sieni, vai lì e c'è la sfogliadoro e te li danno e ne puoi comprare quanto ne vuoi. Infatti, non so dove, aspetta che mi stanno telefonando. Ma... Avanti, va. Sì, io direi di rilanciare Giovanni, già io stacco un attimo così mi stendo quella roba, metto un altro carico e poi mi faccio un caffè in atto e poi rientro se posso, dai, avanti Giovanni, se mi copi. Ecco, ti ascolto, dai, buon caffè, buon tutto, allora dovrei uscire media adesso, dai. Allora qui Santiago 8, che siccome è secco è circa 9, qua è circa 8, quindi è un reale circa 9 con gli apparecchi normali, K. Va bene, vi lascio, a dopo, vai Gianni. Ehi, a Marco, là. Aiuto, muoviti a fare queste cose e rientra, se no rimanga la sura da buca. Oh, che c'è Natalino lì e rientrerà a breve, c'è Giovanni, poi entrerà qualcuno, dai. Ehi, vabbè, dai. Avanti Giovanni. Sto sistemando un pochino, ragazzi, no, è tutto tanto rugginoso. E allora già. Abbiamo mangiato questi giorni, diciamo, a buddati, adesso un po' di Ramadan facciamo. Sì, dai, anch'io già ho recuperato un pochino. Io ho recuperato, io sono rientrato ieri, mi sono arrivato, ieri mattina. Oh, dove eri, continente? Due mesi fuori ero, due mesi. Due mesi? Sempre con la stessa ditta, sì. No, ho cambiato, ne ho trovato un'altra e faccio nazionale ed estero, capito? Ah, ecco. E guadagni di più. Un bel, adesso vedo vaga davvero. Già va bene allora, va. Se c'è il tanto, già va. Ce n'è abbastanza, insomma, molti. E allora va bene, dai. Allora va bene, solo che devi fare questi sacrifici, statene fuori. L'unico coso è che sei fuori, capito? Ma come se travaglio non t'ammazzi, ma se travaglio non, perché tutto devi sdoganare, le merci, tutto quanto, capito? Non è che non ti ammazza il lavoro. Ma non stai guidando? Certo che sto guidando, ma non ti ammazza il lavoro. Tipo venerdì che mi hanno fatto fare una domandina per le ferie, ho fatto un locale, ci avrò fatto 6 km tutto il giorno, e anche troppo. Ma fuori continente o all'estero? Venerdì, perché dovevo partire, sono stato in continente. E la ditta di dove eri? Fuori? No, è italiana, una ditta italiana. Ah, ecco. Vabbè. Ma sempre cosa c'hai? Articolato? Sì, lì sto facendo casse mobili, però ho attaccato anche qualche frigo, qualche telonato. Sì. Dai, è un misto. Così non t'ha nulla. No, annoiare già non sta a noi, anzi è un lavoro proprio tranquillo, si sta molto bene. È meglio così, e qua non è troppo così tranquilli. Non veniva di uno, cazzo, che dovevo correre come Tommaso, facevo sassa di Olbia 4 volte, Marco, hai visto i divieti che ci sono, ne abbiamo parlato l'altra volta con quella strada, no? E lì, cazzo, io, non solo io, tutti quanti, cazzo, la facevamo a 90 con la strada, cazzo, ma stai scherzando, è andata bene, cazzo, ma correvamo come scemi. Perché ci sono deviazioni, e una volta tu rendi da San Teodoro di notte, per poco non vado dritto, sembrava che dovessi andare dritto, invece c'era una svolta, diciamo una deviazione, dai. No, sono anche segnalate male, cazzo, in continente, le strade, una semplice curva, ma cazzo, ma te la segnalano già da un chilometro prima, cazzo, cioè, proprio, cioè, non mi sono segnalate male qua. Ma poi, troppi lavori in corso ci sono, quando andavo a San Teodoro, che lavorava la mia compagna lì, andavo a prenderla, era tutto quanto la strada, tutta con lavori in corso, un casino. Oggi anche sopra, guarda, è pieno di lavori in corso, tu fai la cisa, cazzo, sono tutti lavori in corso, fai l'Apennino, cazzo, sono lavori in corso, però cazzo è segnalato, cioè c'è tutta un'altra sicurezza, hai capito? È diverso. E cosa stai trasportando? Che tipo di rimorchi trasporti? Correndo come Tommaso, cazzo, ma tutto no. Ho detto, che merce stai trasportando? Merce mista oppure alimentari o roba così? Allora, gli alimentari l'ho fatto una volta, col frigo, ed erano acciughe per la Tunisia. Adesso non mi ricordo dove cazzo le ho caricate. Comunque erano tutti quanti bidoni, tambullame piene di acciughe, capito? Vanno a finire in Tunisia, poi vengono lavorate e poi credo che ritornino nuovamente in Italia, capito? E poi sto facendo l'Iveco, palestre, motori, tutta questa roba, tutta roba industriale, capito? Pesante, peso, venne cazzo proprio. L'altra volta vado a agganciare questo cazzo di rimorchio e lo sentivo che era pesante. Comunque faccio una strada in montagna, cazzo, questa macchina ci arriva a 40-45, cazzo. La mattina, quando ho scaricato, ho aperto, cazzo, c'erano palestre di camion, ti puoi immaginare quanto era pesante quel rimorchio. Me lo posso immaginare, tutti i ricambi praticamente. Sì, ricambi. Appagato. È un periodo quando lavoravo con la Temi, Anch'io portavo motori e quelle bobine dell'era, le ghiscimanti. Già le ho portate anch'io qualche volta quelle, inutili, un'altra cosa che non pensa a me. Già. Dimmi se mi ascolta lì a Platano. Ho visto proprio il camion lo stesso, nuovo. Viaggi bene, ruote, cazzo nuovissime, viaggi bene, proprio tutti comfort. Guarda Giova, se ascolti a Manuele. Giova, mi ascolti? Poco fa lo sentivo, quando l'avete rilanciato ero, mi trovavo da un'altra parte ma non lo sentivo, magari neanche lui ascolta me, non lo so. Sì, allora l'ascolto comunque. Tu a Manuele non lo ascolti? No, negativo, no, non lo ascolto proprio a Manuele. Non ti ascolta Manuele? C'ha l'antenna sul tetto o c'ha l'antenna in macchina? No, c'ha l'antenna, quella sul tetto stai usando, Giova? La solita, quella, l'assidio, è quella che poi, quando io prima all'inizio c'avevo il salto di, come lo chiamate, quella fatta a volante, diciamo. E poi l'ho tolto e ho messo questo assidio, e da allora no, 4 metri di altezza, basta non ti credere, la terra, 4 metri da terra è alta, c'ha l'assidio di quelle stazioni del bar. Già lo sento. No, io già l'ascolto, dai, va bene, dai, era solo per curiosità se arrivavo fino a lì, dai. Tutto lì. Ma niente, riprendete pure, dai. Manuele, per risolvere ti metti un lineare, sei a posto. Lo so, ma non volevo rompere il collo a nessuno. Magari con il lineare entra pure la televisione. No. Se usi 747 non ha mai dato fastidio a nessuno. Io l'ho avuto tanti anni, non dava fastidio di nulla. Io l'ho usato sinceramente. Eppure quando l'attaccavo entravo. 747? Sì signora, entravo di brutto. Avanti Giova, cosa hai detto? Non ho capito. Il filtro già. Appunto, ci sono anche i filtri anti TVI, ci sono i metto. Quello RM Italy, lo fa anche la Midland, non il ZG, no, per carità, però l'altro è fatto bene. Ok, riprendete, vai Giovanni. Sì, ma non sei Emanuele quello che sta parlando adesso, giusto? Dov'è Emanuele? In che punto si trova? A Santa Maria di Pisa. Cazzo, non siamo neanche tanto lontani, Ma sto uscendo con un antenino di macchina, capito? Lo so, cazzo, anch'io ne ho fatto di esperimenti, di cazzati. Dai, stiamo piano, anche lui già si mette a posto. Oh, già. Nara, Marco. Allora, io come facevo a capire se quel filtro aveva efficacia? Non ho potuto verificarla questa cosa qui, perché ho detto, magari mi trovo un canale TV che io disturbo, no? Senza filtro, no? Con lineare, senza filtro. Trovo il canale che viene disturbato quando parlo, tanto televisore qua. Poi attacco il filtro e vedo la differenza. Beh, lo sai che io, nonostante fossi senza filtro, non c'era modo di disturbare i canali della mia TV, nell'una, nell'altra, nell'altra antenna, niente. Anche senza niente non riuscivo a risolvere, provato in tutti i modi, anzi per vedere se, per testare l'efficacia del filtro, non ci sono riuscito a testarla, perché anche senza nulla non era tutto perfetto, si vedeva tutto bene qua. No, ma anche da me col 747 sono mai disturbato. E quello vuol dire impianto antenna TV fatto bene, capito? E vabbè, quindi io non so se questo filtro funziona o no, però loro lo danno per 80 decibel, no, fa che sia 60, dai, 60 decibel di attenuazione oltre 30 MHz, cioè ti attenua proprio la roba sulla V e sulla U, capito? Dove sono i canali TV, radio e tutto. Ma ti abbassa il segnale. Allora volevo cercare di trovare l'eventuale armonica, sai che se moltiplichi 27x3, 27x5, no? Sono le armoniche di disturbo maggiore, ma anche lì non sono riuscito ad arrivare a niente, cioè per vedere se queste armoniche me le annullava, ma non sono riuscito, anche perché lo scanner con frequenza mi pare non ce le abbia. al palazzo, tutti gli altri non li disturbavo, disturbavo questo qua che tra l'altro aveva avuto un incidente, era sempre attaccato al televisore mattina e sera, e la moglie veniva a brontolare perché c'era anche il marito, non lo sapeva, non poteva fare altro che guardare il televisore, non lo poteva vedere perché sentiva a me che parlava in francese e così. Ma probabilmente tu entravi, ormai col digitale l'audio non entra, diciamo, non è analogico al TV, sicuramente sentiva l'audio nelle casse, cioè nel circuito che amplifica il volume che va alle casse, capito? Marco, ti parlo di quando ero ragazzo a casa di mamma, non ero ancora sposato, figurati, ti parlo di tanti anni fa, c'avevo una Grand Play, c'avevo un Aeghe in quinto e il Jumbo Aristocrat come lineare. Ah, Jumbo Aristocrat, delicato anche lineare. Però lo attaccavo solo di notte, capito? Di notte quando facevano le gare e cose, attaccavo solo di notte. Quindi di notte a una certa ora, stavamo anche sino alle 7 alle 8 di mattina, tutta la notte modulare. Bei tempi, proprio bei tempi. Riprendete pure che continuo a fare quello che stavo facendo, ma non le riprendi. No dai, ascolto, sono entrato per curiosità solo se mi ascoltava Giovanni e basta, dai. Rimango in quell'X che sto facendo delle cose in casa, vai già. Io già ho finito, mi sono tutto ritirato la roba e ho sfasciato anche lo stendino, cazzo, mi sono dovuto aggiustare anche lo stendino. Giovanni? Eccolo in ascolto, dove hai sfasciato lo stendino, Gianni? Ho caricato troppa roba e si è craccato, già lo sai che sono di plastica quegli stendini. Lo uso molto quando, per dire, c'è brutto tempo e cose. Avevano detto che doveva fare brutto tempo oggi, invece qui ha fatto una bella giornata, che faceva brutto tempo, che qua, che là, e poi. E ho caricato lo stendino tutto di roba. Ho lavato un bel po' di roba, sai, la tovaglia che ho usato ieri, che si è sporcata, eccetera, tutta la roba che c'avevo addosso, eccetera, asciugamani, di tutto e di più. E l'ho caricato troppo, deve essere. Sì, dai, già ci può stare, via. Già sbagliano ogni tanto, cazzo, con il tempo e se stai dietro molto a queste previsioni, cazzo, fai brutto. Per molta gente che doveva fare la scampagnata è stato un bene, dai, che abbiano sbagliato. Io qua stamattina sono sceso giù dall'Isola Rossa, cazzo, era pieno di gente. No, io non sono uscito stamattina, sono uscito solo con il cane e basta, tutto lì, a farmi un giro col cane e basta, e poi me ne sono tornato a casa, non ho fatto niente oggi, ero stanco da ieri. Vabbè, lo credo, cazzo, due giorni consecutivi alla nostra età non vanno più bene. E poi c'avevo sette persone invitate a casa, capito? Sette, non una, no. Ho dovuto cucinare bassetti, bassoni e tutto quanto, preparare, fare, insomma, sono stancato per quello. E con la gamba come sei messo già a proposito? No, bene, ho riacquistato il 100%, adesso cammino bene, tranquillo, non zuppico, niente, proprio perfetto. Il 100%, cazzo, bella notizia, buono, cazzo. Sì, no, grazie a Dio mi sono ripreso bene, dai. Mi sono ripreso molto bene, 3 mesi ci sono voluti, ho fatto molta ginnastica, ho fatto fisioterapia, tutto fatto da me, no, non col fisioterapista, tutto fatto da me. Controllavo su internet, la prima settimana devi fare questi esercizi, la seconda questi, la terza settimana questi, e io seguivo alla lettera, capito? Sei stato costante, è stato bene, cazzo. Mi hanno mandato via il giorno dopo che mi hanno operato, perché c'era il coronavirus, hanno liberato tutto il reparto, ci hanno mandato via il giorno dopo che mi hanno operato. Sì, me lo ricordo quello già, me lo ricordo. Qui adesso da domani mi fa fare un po' di visita e poi vediamo un pochino. E tu come ti senti? Ma a me ultimamente, l'altra volta stavo camminando, cazzo, di lampeggio a questo punto, la faccio apposta. Guardo gli specchietti subito, cazzo, detto, ma non è un cazzo o qualcosa, un po' te lo voglio sempre, non faccio tutto, dai, pensare, guardo gli specchietti, cazzo, rivolto, sto fatto a posto, cazzo, vado avanti, una gomma in terra, un cazzo sta bucato, continua a camminare, la gomma l'ha persa a 2 centimetri, da quel momento, forse ho spostato la vista, non so che è stato successo da quel momento, adesso ogni tanto mi vengono qui tanto, mi vengono, cioè perdo la vista, cazzo, non ci vedo più, non ho capito che cazzo è. E fatti controllare, vai dall'oculista e fatti controllare, quello è pericoloso, Giovanni. Guidando specialmente è pericoloso. Io pensavo che lei era cassetta, mi vedeva troppo materia, che ne so, invece lo sta facendo solo con l'uso, sta facendo. Mi viene, tipo che mi manca l'ossigeno al cervello, capito? Ma ti si appanna la vista? Capogiro forte non ci vedo più, capogiro forte non ci vedo più, mi sembra come se manca l'ossigeno proprio al cervello. Che cazzo. Fatti controllare, Giovanni, non ti trascurare, perché non sono cose da scherzare quello. Magari è qualcosa che si può regolare con qualche medicina, qualche cosa, e te le metti a posto, va. Sì, infatti adesso questa settimana c'è una settimana di ferie e ne approfitto per fare tutte queste cose. E anche perché se ti manca la vista, che te scivoli strada, cosa c'è, combini guai, è un casino. Specie guidando, uno che fa tanti chilometri, deve essere sempre vigile con l'occhio. Sì, e quando mi viene, cazzo, devo fermare immediatamente, secondo me sì, non c'è neanche il posto per fermarsi, cazzo, trovare proprio la piattola per fermarsi. Non mi piace niente per questo. Fatti controllare. Poi da Piccinini, che è molto bravo. Piccinini è molto bravo, prendi l'appuntamento da Piccinini, vai a pagamento, però quello lì è un grande dottore. Già il padre lo era e poi adesso c'è il figlio, sono tutti e due molto bravi. E adesso da domani c'è stato tutto per quante le. Gli appuntamenti con i professori, capisco, da domani e parlo anche di questo problema che mi è venuto, perché mi è venuto una settimana, mi non di pensare che una settimana. Ma è come ti sei inchinato per cambiare la ruota, che no, io stavo guidando, era un'autostrada che guidavo e questo qui mi ha lampeggiato, un altro autista mi ha lampeggiato e io cazzo ho detto c'è qualcosa, tutto guardato, gli specchietti e il rimorchio era a posto, insomma guardate, va avanti cazzo, e c'avevo una gomma di camion in mezzo alla strada, un camionista ha bucato, capito, e ha continuato a camminare. La gomma si è staccata dal cerchio ed è rimasta in mezzo alla strada, dove io sono passato, vedrà, stava appena successo, era questa gomma, non era intervenuto nessuno, non è stata rimossa, capito? E da quel momento in cui, che ti sto parlando di una settimana, da quel momento in cui ti sto facendo questo scherzo. Che strano, gli sarà scoppiata proprio la gomma, sarà scoppiata. Vabbè, ma magari non è niente di che, magari con un paio di occhiali da riposo, ma di notte te lo fa. No, ma l'ha fatto anche oggi guidando il camper, ma lo fa anche guidando il camper. No, di notte io non sto guidando, di notte non guido, qui guido soltanto di giorno. E magari l'occhio stanco. Ti stanca l'occhio guidando e hai bisogno di qualche occhiale magari per riposare l'occhio che non lo sforzi. No, già non credo, come mi tirano ancora tutti i del coso, come si chiama, tutti del coso, e secondo me non è sufficiente l'ossigeno che passa. Ma... E che ne sappiamo noi, solo loro lo sanno, bisogna andare da uno specialista e farti vedere. Ma io non mi sarei trascurato, Giovanni. È meglio che non si trascuri, no? A me mi è successo che mi era venendo incontro una rodentrea di camion, che sono nella via Bessa, ragazzi, e la giuvita camminando a Sura, a Ruda, a canta giuvata a schivarla, ragazzi, a Vignola. Succede poi queste ruote di camion, a me una volta mi è scoppiata la ruota di dietro, della gemellari, me ne è scoppiata una, ha cominciato a sbandare il camion perché si è attorcigliato il parafango alla ruota, Giovanni. Guarda, a me mi è successo carico di farina con la ruota anteriore, si può immaginare. La destra. Quella è ancora peggio che ti fa sbandare. Guarda, mi è successo due o tre volte. Tutte le volte sono riuscito a tenerlo in strada, anche perché non è che. Anche perché non è che va subito a terra da in 448 e un po' ti dà il tempo di trovare un punto e fermarti, dai. È sempre che si trovi il punto, se c'è un'autostrada, se non trovi una piazzola per fermarti di emergenza, non ti puoi fermare, è un casino. Natalino, avanti. Sì, io sono arrivato a Bessa da un rimorchio che si è articolato la ruda e stava venendo contro di me camminando da sola la ruota, dimmi tu, e lui era in cunetta con l'auto articolato. A quanto ho fatto a schivarla, mi aveva pigliato la ruda, guai. E poi a velocità che vanno. Infatti, convocazione. Ha preso la ruta dal coso, da Rogamio, non ha preso. E lui era in cunetta, chissà come cazzo ha fatto a prendere la ruota. O non l'aveva in cinta, infatti lui è una cosa un po' strana, E l'ho vista davanti la ruota, cazzo, giudizio, boom, e l'ho schivata, ma per un pelo. Sì che c'è Giovanni anche, avanti Giovanni. Dai, adesso ne approfitto e vi saluto tutti quanti, buon proseguimento di serata e buon tutto, auguroni, e ve l'avrei voluto dare ieri e anche stamattina presto, ma non c'è stata la possibilità. Ok, ciao a tutti, buon proseguo. Ehi Giovanni, sta sempre bene a Citti, dai, ciao, buona serata anche a te, ci sentiamo, avanti Natale. Sì, ciao Giovanni, ciao, alle prossime, auguroni. Chi è che c'è rimasto? Ah, c'era Marco Condo, ma dice che stava facendo la casalinga, stava stendendo, facendo bucato. Marco, Condo, ci sei? Ogni tanto faceva cucù, però sta facendo. Ha detto che si doveva fare il tè, il caffè, il caffè in atto, e poi doveva fare il bucato, stendere, non so, gugosa. Insomma, tutte le cose di casa. Ho capito. Adesso mi faccio tutte queste visite, io che devo fare. Dopo ne stacco tutto. Cerco qualche amico che mi dia una mano e ne sta tutto qua. Tanto Baragliente ben prendi, in più me ne passa da ragazzo. Quindi no. Non è un'intenzione, da. E prima di tutto ho preso, adesso ho gatto delle stacche di tutto. E già entrerà la gente natalina a periodi, lo sai che è così, no? A periodi entra, a periodi non entra. È sempre stato così. Hello, hello, hello from the USA. Hello, hello, hello from the USA. Attention, my friend, Italy from Sardinia. Hello, hello, hello, hello my friend. Hello my friend, la tariffa vedi in inglese che lo occupa più da. Americano è io. Sì, ma anche se è americano. Io no, non ne ho voglia, dai. Devo preparare la cena. Ci sentiamo già, alle prossime, dai. Ciao Natalia, attention my friend, Italy from Sardinia, tua city. Hello, hello my friend, hello, hello, hello my friend, my name is JR in the USA. Qual è tua city? C'è una propagazione che è, con 4 watt l'ho copiato, Chi era? Da dove era? Non l'ha detto? Non l'ho capito, però già mi ha sentito perché mi ha risposto. Adesso con 4 watt, con 3.900 sono. Veglia, E beh, tu c'hai una posizione buona, poi è bello che hai il mare di fronte. Eh beh, è più libero, sì, per certi posti sì, magari per i paesi no, per i paesi non è tanto libero. Ma paesi tipo quali, a sud? Eh sì, sì. Anche nella, dopo mi hanno sentito sì da Urbia, però con la propagazione, mi ha sentito Domenico Tarzanetto una volta. Detto, sentivo solo a te che passavi il Mac agli altri, però gli altri non li sentivo, sentivo solo a te. Sì, quanti siete? Chi siete? Io, Gianni ed Occhiuru. Non è rientrato Natalino? Se n'è andato, lo sai che Natalino mangia presto, eh? Hai ragione, che sono le 7:18, sai cosa, io vedo un bel di luce, non sono abituato all'orario ancora. Anche io, a me mi fotte spesso la luce, non mi sono abituato manco io. Hai finito con le faccende di casa? No, in realtà no, ho steso la roba, ho fatto il caffè per me e per mamma e devo fare un altro piccolo bucatino, ma piccolo, non è nemmeno essenziale, dai, sono cose, tanto gli stenditoi sono tutti pieni. Io l'ho rotto uno oggi, immaginati, perché l'ho riempito troppo e si è craccato. A proposito, siccome avevano tolto lo stenditoio i muratori, noi abbiamo messo una corda provvisoria che pende un po', no, a U, tutta la larghezza del terrazzino in modo da stendere su quella, perché se hai urgenza di lavare una camicia o un pantalone che ti serve il giorno dopo, magari dentro casa non fa in tempo a asciugarsi perfettamente, la stendiamo al sole e fa prima, e se no, se aspettiamo questi, no, non stendiamo più praticamente il terrazzino. E non ve la sporcano la polvere con la... No, già è lontano dalla coibentazione, è lontano da tutto, non tocca nessun punto. Peccato che il terrazzino, caspita, è 10 cm più stretto. Sono inchiappettata un po', sì, me ne frega sempre della coibentazione, poi sai cos'è, non ti puoi nemmeno esimere con queste leggi strane, anche se nel condominio sono d'accordo e tu non sei d'accordo, devi... Non ti puoi sottrarre a queste cose, non so, le hanno studiate bene, capito già, tra 8 cm di coibentazione più quella schiuma che mettono loro, insomma dal muro ci saranno 10 cm in più circa, e si vede che il terrazzino è più stretto, tant'è che lo stendino che prima ci stava adesso non ci sta più, cioè o metti lo stendino però non passi tu, non puoi passare da una parte all'altra, capito? Sempre avuto in dura, beh. E poi adesso c'è questa nuova legge che non so entro che anno devi rifare tutto l'impianto della casa, norma, l'impianto elettrico, eccetera, eccetera. Guarda, allora l'Europa già vuol fare, non so, ha decretato che tutte le case devono salire di non so quante classi, se uno o due di meriti, di classi di coso termico. Come se noi nel Mediterraneo avessimo le stesse condizioni del nord Europa, no? Tipo Germania, tipo Olanda, noi siamo molto più in basso e non abbiamo certe esigenze. E in più già poi, non so, vogliono mettere al bando un sacco di roba, caldaie di quel gas, caldaie di questo tipo, cioè alla fine ti devi mettere, perché devi mettere i soldi nella saccoccia e ti devi fare, cioè cambiare caldaie, cambiare, è un casino per chi ce le ha, noi vabbè caldaie qua non ne abbiamo, però mettiti nei panni di un condomino che quando dovranno cambiare il tipo di caldaia, adesso non ho guardato bene la situazione, però sto sentendo tante voci, cioè se lo facciamo una rivoluzione energetica che a me mi si è ripresa per il QSO, ecco. Sì, ma io dico questo, uno è il proprietario della casa, lascia fare al proprietario quello che vuole, non puoi imporre tu di coibentarla, di farla e cosa, lo vede lui se lo deve fare o no, se può spendere quei soldi o non li può spendere, cioè non è che puoi mettere tu delle spese, o gliele fai tu a spese tue, il governo, oppure non puoi obbligare. Perché vabbè, gli incentivi fino a un certo punto, però poi alla fine certe cose le devi pagare di tasca. Vabbè, quindi misure a misura di ricco queste leggi, no? Cioè chi può lo fa, chi non può cosa fanno? Sanzioni, cominciano ad arrivare sanzioni su sanzioni. Boh, vabbè. E si rabbidano tutti in luce. Non è frega niente, vabbè. E quindi i ricchi sempre più ricchi, i poveri sempre più poveri, ovvio, no? Vabbè, quello è stato sempre così. Non c'è mai stata una cosa equa. Solo nei paesi dove c'è il comunismo riescono a far stare tutti alla pari. No, no, nemmeno. Adesso, ti ricordi Brezhnev, mi pare fosse, no? Non credo che il compagno Brezhnev abbia mai fatto usare agli operai nelle miniere di carbone la sua bellissima collezione di macchine sportive, tra cui Maserati, capito? Guarda quanto era comunista se li lasciava usare agli operai. Però ci dovrebbe essere un salario per tutti adeguato, capito? Perché non è solo a fare spese, se uno spende deve anche guadagnare, deve avere un salario che gli permetta di farlo. Se tu non hai potere nelle spese, è normale che poi alla fine diventi povero. Sì, è un discorso un po' così, dai. Ma va bene, fa girare, se c'è qualcuno ancora, io qua faccio le ultime cose, dai. E vabbè, io sto chiudendo, tanto non c'è nessuno, con chi parlo, col muro. Anche Giovanni ha chiuso. Sì, Giovanni ha chiuso, Giovanni è andato via. Oh, via il bip, ecco qua. E intanto fra poco porto giù il cane. Non ho giù molta gana, adesso mi devo vestire, perché mi sono messo il pigiama per stare più comodo in casa, tanto non dovevo uscire. Ehi, purtroppo, mamma mia, il cane va portato. Io quando vedo certi che escono alle 7 di mattina, magari non hanno voglia, ma ci devono stare alle 7 perché il cane altrimenti gli inonda la moquette. No, io posso portare anche a mezzogiorno, il cane non mi sporca nulla, almeno che sia diarrea, allora vabbè, è scusabile, ma se no il cane sino a quando lo porto giù non fa niente. Ma riesce a trattenere anche la pipì, perché poveretto, magari sì, lui lo fa per correttezza, non la trattiene, però poveretto, magari se ce la sta facendo addosso, ma non può farla, dai. No, ma io lo porto 3 volte al giorno, quindi gli do modo di sfogarsi bene. Ha voglia. E poi Giacomo è diventato come cane, ma vi detto un po' più sul chi va là, come dire, più attento, dai, più diffidente forse rispetto a quando era cucciolo. E io lo porto sempre con la museruola, Marco, perché quando vanno a carezzarlo, secondo chi va a pelle, secondo chi li salta addosso lo musca, quindi non ama molto le coccole da gente che non conosce. E poi dipende come si approccia uno, perché certi gli mettono la mano sulla testa, il cane quando vede al di sopra della testa qualcosa che si avvicina, tipo la mano la interpreta anche un po' come una minaccia, bisogna mettere la mano molto in basso in modo che lui la possa usare piano piano, come facevamo con me, ti ricordi? Il cane prima bisogna fargli odorare la mano, abbassarti e metterti allo stesso suo livello, non guardarlo mai negli occhi. Ci sono delle regole, se tu lo guardi negli occhi il cane lo stai sfidando. Sì, no, ma infatti bisogna approcciare piano piano, no? Che è bello, me lo fai accarezzare, gli metto le mani in testa e quello si gira male. Io ho evitare situazioni brutte, come c'è stato vicino a casa una brutta situazione, il cane che ha morsicato a Tyson ha morsicato un altro cane, l'aveva legato al palo, questo signore è passato con un cane, c'ha un cane miticcio ma bellino, dai, e le vuole bene soprattutto. Come ho visto, quel cane ha staccato il guinzaglio dal palo, è riuscito a strapparlo, è andato verso il cane, questo signore, come ha visto che stava andando verso di lui, ha preso il cane e se l'ha messo sulle spalle, dice che lo spingeva, una forza questo cane inaudita, dice che mi spingeva per farmelo cadere da addosso, allora l'ho messo su un cassoletto della mondetta per non arrivarci, beh lo sai che è salito sul cassoletto, l'ha preso al collo, gli ha fatto uscire l'occhio fuori dall'orbita, quando ha visto così così ha cominciato a prendere a calcio, a alzargli le zampe di dietro, niente da fare, si è riuscito, il padrone non l'ha mollato e ha morsicato anche a lui, capito? E ha detto che dove l'ha morsicato l'hanno dovuto aprire due o tre volte perché ne ha preso infezione. Mamma mia, che cosa brutta, guarda. E lì la colpa del padrone, capito? Quel buzzurro. È un pitbull, capito? E questo cane è stato bastonato da piccolo, bastonato proprio a ruccio. Quindi è diventato cattivo, è cattivo con tutti i cani. E non solo con i cani, anche con le persone, perché quel signore l'ha morsicato. Perché quel signore ha detto, per salvare il cane io ho cercato di tirarlo e mi ha morsicato, capito? E lì cosa puoi fare? O colpirlo agli occhi il cane, cioè praticamente devi fargli male tu, devi cavargli gli occhi, cioè infilargli proprio i pollici negli occhi finché proprio non entra il pollice mi. Solo che lì poi lo stai rovinando il cane, ma d'altronde per salvare il mio cane forse lo farei, non lo so, è brutto a dirlo. La colpa è dei padroni menefreghisti, poi quello è un randaggio di suo, quindi. Però un cane pericoloso, io so dell'idea che andrebbe abbattuto. Tanto non credo che tu lo possa recuperare. Se è stato picchiato da piccolo, trattato male da piccolo, ormai è incattivito, capito? E puoi dare anche una lezione al proprietario, cioè Galera, vabbè che a quanto ho capito è abbonato. Allora, quel signore lì l'ha denunciato e lo dovranno chiamare dai vigili urbani, nell'ufficio dei vigili urbani, e lui ha detto io non voglio che fate niente al cane, però che vi imponiate di mettere la museruola, perché lui con la museruola avrebbe già risolto tutto, e poi obbligarlo proprio di mettere la museruola al cane e poi di portarlo a fare un po' di educazione da qualche cinofilo, per rieducare il cane, capito? Deve essere rieducato quel cane, non è possibile lasciarlo così perché ha morsicato troppe persone e troppi cani, capito? Non è il primo, né l'ultimo. Però già non so se riesce a raddrizzarlo. La piantina o la raddrizzi da quando è piccola, però se è incattivito così il cane, per gli abusi subiti non lo aggiusti, E tra l'altro non ha né microchip e né vaccini quel cane lì. Quindi ha morsicato quel signore ha detto ecco perché mi ha preso infezione, non era manco vaccinato questo capo di cane, che sa cosa mi ha attaccato. Proprio gente che vive proprio ai confini della realtà, anche oltre. Però lì la colpa è sempre di. Cioè la legge si applica, come si dice la legge? Per gli amici si interpreta, per i nemici si applica, lì bisogna applicare la legge. Al tipo bisogna metterlo in croce, al cane fargli i vaccini, chip, se è salvabile, se no te l'ho detto. Oi, per carità. No, ma è recuperabile, io l'altra volta l'ho preso a voci dalla finestra, ho detto glielo metti quel guinzaglio, e mi ce l'ho in mano, signor Già. Cosa ce l'hai a fare in mano se non glielo metto il guinzaglio? Hai lasciato un cane che è così pericoloso, lo lasci libero, senza museruola, senza nulla, è libero così, capito? Sì, ma è proprio un incosciente lui, è una testa matta lui, capito? Forse non è contento dei casini che c'ha già e ne vuole attirare altri. Contento lui. No, non riesce a gestirlo quel cane, lui non è una persona che può gestire quel tipo di cane. Specialmente quei cani lì hanno già l'indole che sono cattivi. Però ha trovato un Rottweiler che gli ha dato una bella sussa una volta ed è ritornato tutti sanguroni. Perché ha trovato un Rottweiler che l'ha picchiato forte. Il Rottweiler c'ha una bella prestanza fisica anche, minchia. Vabbè, e ce ne sono tanti così, anzi ti dirò che certi più randaggi sono, più si prendono questi cani da attacco, non da difesa, da attacco, proprio per fare sfoggio oppure per così. Per avere quasi un'arma, è come avere un'arma a carica, capito già? Sì, infatti, li addestrano, ci sono gente che li addestrano proprio per morsicare, li mettono le camere d'aria sopra gli alberi, li fanno arrampicare, loro si attaccano alla camera d'aria, stanno a penzoloni, tu li puoi tirare come vuoi, non mollano. Ho visto, non mollano. Ci vuole il piede di porco per fargli aprire le mascelle, incredibile, guarda. C'hanno una forza di non so quanti, aspetta, come si misura in chilogrammetri o joule, il morso, la potenza del muscolo. In chili mi pare che sia. Praticamente questo signore, che è il fratello di un addestratore di cani, a Platamo ha visto una scena, me lo stava raccontando, ha detto che questo pitbull ha morsicato un bambino e non voleva mollarlo, è andato lui, gli ha dato un pugno in testa, lo sai come l'ha mollato, e l'ha fatto svenire, e il padre mi ha ammazzato il cane, e allora cosa gli lasciamo, ma c'è ammazzare il bambino, a parte non te l'ha ammazzato, te l'ho fatto solo svenire, come gli ho dato il pugno. Però stava ammazzando il bambino, cosa faceva ammazzare il bambino? Delinquente, la mamma gridando, piangendo, stavo seccato il braccio. Il braccio, pensa se lo addentava al collo, sarebbe stato fatale l'esito. Sì, lì devi difendere o il tuo cane o peggio che ancora un figlio, un bambino, lo devi difendere a tutti i costi, a costo di ammazzare il cane dell'altra persona. Anche se ha un coltello in tasca, gli apri la gola, pazienza. È brutto da dire, ma il cane può, già lo sai che capacità hanno quei cani, soprattutto questi stravaganti. Addirittura certi possono ammazzare un adulto, non è capitato un po' di volte che si siano girati contro i padroni, contro le padrone, anche senza motivo apparente. Ho visto certe foto su internet già, i cani che hanno sbranato i padroni, per carità di Dio. Marco, non è successo da tanto che il fratello di questa ragazza gli ha detto, mi pare 35 anni aveva, gli ha detto se poteva andare a mangiare il cane, che tra l'altro conosceva bene, si stava preparando da mangiare, il cane l'ha assalita e l'ha ammazzata, l'hanno trovata morta, un Rottweiler. Sì, era il cane del fratello, ma io dico, questo fratello era andato fuori per tipo vacanze e ha lasciato il cane per tanti giorni da solo, così diceva il giornale. Come fai a lasciare un cane del genere da solo, magari senza mangiare pure? E quello ha visto, probabilmente se non la conosceva, ha visto un'estranea che entrava in casa e quindi si è scatenato. L'ho letto. No, la conosceva la sorella, hanno detto al telegiornale, hanno detto che la conosceva bene e che lei andava a dargli da mangiare, quindi solo non era, le riportava da mangiare ogni giorno, andava lì, per cui gli ha girato di gabbo, capito? Ha girato di gabbo, forse lui si è visto con un'altra persona e sai come, cosa ragionano loro non si sa, magari hanno pensato che il padre l'avesse abbandonato. Sì, non sai il motivo. Vabbè, ti avrei raccontato un episodio di una signora che in Texas teneva uno scimpanzé da quando era piccolo, poi è diventato adulto, vabbè, stava nel giardino, mangiava cibo a spazzatura, però era diventato alto 1,20 m e pesava non so quante decine di chili, cioè un bestione era diventato, quindi uno scimpanzé adulto. Beh, un giorno è tornato a casa con l'amica, e questa amica ha preso quel pupazzo di Muppets, se l'ha messo in spalla, no? Esce di testa questa scimmia, non ti dico come le ha ridotte, all'amica l'ha devastata, dice che c'era il corpo brutalizzato in un lago di sangue, e alla proprietaria le ha staccato tipo, e proprio le ha stracciato una mano, l'altra gliel'ha devastata, le ha distrutto il viso, non c'era più il viso già. No, una cosa allucinante, ha avuto un trapianto di viso quella persona. Guarda, se tu leggi l'articolo come è successo in dettaglio è impressionante. Però non gli hanno fatto niente di male, lui ha visto questo pupazzo in spalla alla padrona o all'amica e è partito di testa, non si sa. Sarà di quelle sacche a forma di scimmia? Sai che pupazzo era? Era un pupazzo rosso, di cui non ricordo mai il nome, con gli occhioni grandi, no? Con la sclera bianca e la pupilla nera. Come ha visto questa cosa, la scimmia è partita all'attacco. Che strano, forse ha visto una cosa che non aveva mai visto, capito? Si è spaventata, boh. O l'ha interpretata come fosse un altro animale preso come di tipo gelosia, non lo so cosa gli passa per la testa. Comunque è vero, gli scimpanzi adulti in natura, tu questo era anche addomesticato e ti ho detto tutto, in natura hanno una forza bestiale, una forza incredibile. Se tu li vedi magari sembrano bravi, sì bravi, lo sai che cacciano anche gli scimpanzé. Certe volte cacciano scimmie di un clan nemico, di un branco nemico, e ho visto delle immagini dove praticamente la scimmia aveva il teschio dell'altra scimmia in mano e stava infilando le dita nelle orbite oculari per mangiarsi quello che rimaneva, o gli occhi o il cervello. Guarda, sono dei mostri. Non lo dire a me, che una volta sono andato in questo negozio dove vendono animali e c'era una scimmia, che bellina, mi sono avvicinato, cazzo, mi ha preso l'orologio, ha cominciato a tirarmi la mano verso la gabbia, se non mi aiuta il padrone, cazzo, una forza inaudita ci aveva, ed era una scimmia di quelle bertucce, però già grande, capito? E poi, vabbè, quelle che arrivano da noi sono già più piccole, ma quello era un esemplare proprio adulto di scimpanzé, e non so se pesassero bei 80 o 90 kg, cioè, una bestia. Però strano che uno scimpanzé tenuto in cattività, però con la gente, abituato a giocare, abituato a mangiare in abbondanza, abbia avuto una reazione tale. D'altronde già anche le persone, hai visto certi gesti sconsiderati di mariti, mogli, figli, cioè che si ammazzano in famiglia e non solo, così, parti di brocca. E chissà cosa l'ha attaccato. Una volta siamo andati allo zoo di Roma, quando ero sposato, eravamo, mi pare, in viaggio di nozze, siamo andati allo zoo di Roma e c'era uno scimpanzé libero, sopra l'albero. Come ha visto mia moglie, è andata e ha cominciato a gridare mia moglie, Gianni aiuto, aiuto, se l'ha tutta quanta abbracciata, ma abbracciata forte, aiuto, aiuto, perché stava cagando sotto. Sono imprevedibili gli animali come le persone, quindi meglio stare attenti per quanto possibile. Poi se deve succede, guarda quel povero Cristo, l'orso. Vabbè già, allora dai, se devi portare il cane io finisco di fare queste faccende in casa e poi mi accenderò la TV, mi scelgo un film mio e mi passo la serata, ok? Beh, ci sentiamo quando capita. Ciao già, ciao a tutti gli ascoltoni anche. Buona continuazione di serata, grazie per il question. Ho giù. È entrato. Ciao a tutti, ciao Gianni. Ciao T. È all'ombra. E allora, ciao a cui. Ciao Tino, ben sentito, buona Pasqua. Non ho il tuo numero e non te l'ho potuto fare tramite WhatsApp. Ok, dai, sentiamo, io finisco la roba qua, Gianni si porta il cagnetto a fare il giro, dai. Ciao a tutti, ciao. Fra poco, dai, io mi trattengo un altro po' se si trattene il Tino. Ciao, ciao. Eia. Aspetta che abbassiamo un po' la televisione. Sì, ciao a tutti, dai, buona Pasqua anche se ai termini, diciamo. Va bene. E così finisce il periodo della buddata. O ciucucciù, vabbè. E io oggi non sono andato da nessuna parte, ero stanco da ieri, cazzo, c'avevo 7 persone a pranzo. Mi sono dovuto destreggiare bene, dai. No, va bene, anche io non sono uscito per niente, sia ieri che avanti ieri, ci abbiamo fatto un giro in macchina, con una macchina così a Platanova, siamo andati a Porto Torres con i ragazzi, il cane, è stata una passeggiata, ma niente di che. E allora ma così è uscito, io stasera proprio non sono uscito, stamattina sono uscito col cane, ho fatto una passeggiata, ma qua vicino a casa, non sono andato lontano, e poi me ne sono tornato a casa. Un po' di relax fa piacere, ieri proprio è stata una giornataccia, sì, ti fa piacere quando c'è gente, ma adesso mi stanca troppo, mi stanca fisicamente. Ho capito già, vabbè, un po' di relax, un po' di riposo ci vuole, io lo stesso, ho già riposato, addirittura anche adesso mi sono stato al divano adesso, figurati. Hai fatto bene, hai fatto bene. Quando puoi farlo. E stavo parlando di cani poco fa e hai visto quel Rottweiler che cosa aveva fatto alla sorella di quel ragazzo. Ma guarda, io non lo so, l'ho sentito, però per dire la verità bisogna valutare anche un po' le situazioni, come quell'osso che ha sgronato, che ha ucciso quel ragazzo, tu sei andato a casa sua, gli ha rotto le palle e quello ti ha attaccato. Questo ragazzo, questa ragazza che è stata, che è aggredita da Rottweiler, a quanto si dice non lo conosceva molto bene. Non lo so, come io la Tricuna che